Giornata conclusiva del 12° congresso della CISL Piemonte a Torino, a Lingotto, con un intervento della segretaria nazionale Anna Maria Furlan. Sono ancora le elezioni di Macron in Francia a tenere banco nell'intervento di Anna Maria Furlan, che sta parlando qui al 12° congresso della CISL Piemonte a Lingotto a Torino. Le elezioni di Macron possono essere una svolta per l'Europa, secondo la segretaria generale della CISL, se l'Europa avrà il coraggio di cambiare a partire dal fiscal compact. E poi nel suo intervento altri punti focali sono la riforma fiscale, i maggiori investimenti pubblici per quanto riguarda l'Italia, la lotta alle diseguaglianze. Ma ci sono anche altri temi locali che sono stati toccati nella 2 giorni qui al Lingotto della CISL Piemonte, a partire da quel patto per lo sviluppo economico del Piemonte che è stato sottoscritto a novembre dello scorso anno e che aspetta ancora importanti finanziamenti. E oggi pomeriggio si concluderà il congresso con il voto per la rielezione di Alessio Ferraris a segretario regionale della CISL per altri 4 anni e con l'impegno di continuare a difendere i lavoratori e i diritti dei lavoratori qui in Piemonte. È tutto, Vanni Caratto, TGR Piemonte. Don Carlo.